4 mattino di Alessandro Milan. Tu sei bravo. No, ma che bravo. Sei bravo. No. Tu sei molto, molto bravo. Myself is better not said. Now I'm closer to the edge. It was 1,001 and 1,000,000 to 2 times. Go down flames and I'm taking you closer to the edge. Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. Dichiaro aperta la votazione. Colleghi, per favore evitiamo cori. Ma io in questo paese ci tratta come dei ladri, non voglio niente. Ridatemi indietro i miei soldi e fatemi fare il congiungimento con l'Inps. Però non è giusto, che io paghi una retorica per cui noi siamo dei ladri, dei corrotti e dei mascalzoni, gente che non ha mai lavorato la vita. Io che ho sempre lavorato. No, per favore, colleghi, non mi costringete a chiudere immediatamente la votazione senza dare la possibilità ai colleghi di votare. Ma ci rendiamo conto del ridicolo in cui si sta precipitando quest'aula? Ridicoli, ridicoli, siete ridicoli, vergognatevi! La votazione è chiusa. Favorevoli 348, contrari 17, la Camera approva. No, colleghi, per favore, evitate queste manifestazioni di giubilo. Capisco la gioia, però vi prego, rimaniamo nel decoro istituzionale. Signora Presidente, solo per segnalare che nella bagarre dei colleghi una delle colleghe ha fatto 2 diti medi, dimostrando oltre che una certa finezza, anche un mancato rispetto delle istituzioni. Dirò anche il nome della collega che porta un nome significativo, visto che lo va bene, va bene. Di quel movimento. Grazie. Pure il dito medio, anzi 2 diti medi, ma poi pare che sia stata vista la moviola e Giulia Grillo non dovrebbe aver fatto alcun ditino medio, questo per onore di cronaca finale, giusto per capire se fosse rigore oppure fallo fuori area o dentro area. Oh, l'Italia di oggi è veramente un grande circo equestre. Abbastanza, concordo abbastanza, caro Presidente De Luca. Un po' un circo equestre. Eh sì. Oh, signori, sono le 6:34 minuti. Questa è la penultima puntata di 24 mattino, eh. Ci siamo, la penultima puntata del Parlamento, eh. Oggi poi verrà svelato tutto. Oggi c'è una conferenza stampa di quello che succederà a Radio 24. Dunque Peter Bescapelo mettiamo direttore del personale. Ah. E subito lui facendo a Lorenzo Nespoli licenziato. Quindi insomma, licenziato! Questo è quello che Peter Bescapè dice a Lorenzo Nespoli. Dunque Lorenzo Nespoli in società licenziato. Questo è il tuo ruolo in società. Io conduttore di 24 mattino fino a domani passerò credo super capo mega direttore. Attaccare! ovviamente. No, vabbè, dai, domani diremo tutto. Allora, alle 6:34 minuti, signori, I vitalizi, ma guardate che tutto questo teatrino, così tanto, ma tanto al Senato non ci sono i voti, ma poi chissà quando la calendarizzerà il presidente Grasso, poi a settembre se ne riparla, poi c'è la finanziaria da approvare, ma guardate che forse stiamo parlando del nulla, però che bello, con questo teatrino di Timedi, Ole, la Boldrini che richiama all'ordine, Ma dai, su. Signori, ci sono 14 gradi a Montevecchia, mentre noi siamo qui nella redazione di Milano. Ci sono 21 gradi e mezzo nella tangenziale ovest. Saluto Maurizio. Ci sono a Savona 21 gradi. Ci sono a Contrada Monte Castelpagano di Cisternino 19 gradi. Cosimo. Ci sono a Cernusco sul Naviglio 19 gradi. Un abbraccio, Salvatore. Ci sono a Carnago Milanello 17 gradi, Giuseppe fa sapere, a Carnago, a Milanello, sede della grande squadra di calcio del Milan. Vediamo quanto riesce a resistere adesso, quanto riesce a spingere quest'ultimo 50. Oh. Federica all'attacco disperato. Ma almeno abbiamo gioito tutta Italia e su Emma McKeon, per il trionfo in rimonta dell'anzianotta Federica Pellegrini. Ritorno alla seconda, terza, adesso addirittura in prima posizione. Si sta per realizzare qualcosa di assurdo, qualcosa di incredibile, qualcosa di impensabile. 1,54 e 73. Campionessa del mondo ancora, l'anzianotta. Momenti epici. Dai, voglio salutare subito il veronese Massimo De Manzoni, che avrà gioito in quanto concittadino della Pellegrini, il condirettore della Verità. Eccoci qua, Massimo. Bella. Sono tutti, sì, bella la fede, bella, bella, brava campionessa. Straordinaria. Non ci sono più parole per devo dire la verità. Non ci credeva neanche lei. Sì, dai, diciamo la verità. Dopo i vitalizi, Federica Pellegrini, cioè tutto torna, no? Dopo... Dopo la giornata dei vitalizi, Federica Pellegrini, signori, tutto torna. Allora, insieme a Massimo De Manzoni c'è un uomo, l'uomo che più ama i vitalizi al mondo, il signor Vincino. Che ecco, con... Dove stai? Sto a Roma. Stai a Roma, ma come mai non vai a Mondello quest'anno? Però no. Per ora no, come mai? Aspetti che finisca l'estate, ci vai d'inverno tu a Mondello. Fai... Più avanti. Metà agosto. A metà agosto, vabbè, ok. Ho da lavorare cosa? Vabbè, dai, apriamo il Parlamento. Signori, qua c'è... Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così... Allora, Vincino, chiariamo subito. Forza, tu gente, cosa pensi dei vitalizi? Io sono estremamente favorevole, una porcata in mano quella che hanno fatto ieri. Estremamente favorevole, ecco. Una ridicola rincorsa al basso tra PD e 5 Stelle, gli sono scippati a vicenda questa lotta contro dei vecchietti, no? Dei vecchietti, okay. Ma guarda, allora, anche tu questa cosa, ma nessuno li toglie. Guarda, oggi Publio Fiori, che prende 11.000 euro, fa due interviste e dice: mi tolgono 4.000 e trovo una cosa di giustizia sociale e vivrò con 4.000 euro in meno. Gliene rimarranno 7.000, tu pensa te, al mese, no? Capisci? Non è che, no? Questo è, cioè nessuno li toglie, li ricalcolano. Li toglie un po', 30%, 40, 20, 30. Forse perché era... Ma i vecchietti non ci toglie, dai. È la questione proprio del principio di unità del Parlamento. Effettivamente. Ma cioè, questi odiano, Grillo odia il Parlamento. Era là, faceva tutte le smorfiette, nello stesso posto dove era l'81, per disegnare, sono stato preso da 6 commessi, portato nelle segrete, malmenato. Ma come t'hanno menato nelle segrete del Parlamento? De Manzoni, ma tu sapevi questa cosa? Vincino menato nelle segrete. Ma che menato nelle menato nelle segrete del Parlamento, ma smetti. È stata una rissa tra radicali e comunisti. L'Aiotti ti ha espulso e vabbè. Ha interrotto la seduta. Vabbè, comunque, insomma, Massimo De Manzoni, anche eppure oggi voi cos'è che dice? Eppure li difende. Dice il nostro Vincino, ma lo scrivete anche voi, dai, è stato tutto. Ma è davvero stato tutto un teatrino? O è tutto un teatrino? Sì, Lo è per tanti motivi, il primo dei quali che tutti sanno che in Senato questa legge non passerà se mai verrà calendarizzata. Tutti lo sanno anche perché questa legge del 2015 fu presentata sotto la spinta di un'inchiesta giornalistica che facemmo all'epoca, eravamo a Libero, io e Belpietro, e l'inchiesta si basava sulla sproporzione clamorosa tra i versamenti effettuati, perché fanno un piccolo versamento i parlamentari, e la pensione ottenuto al termine di questo versamento. Ma capisci che è questo assolutamente vergognoso. Ma infatti che è questo che si vuole cambiare, non è che si vuole buttare alla fame nessuno, non è che si vuole di... cioè... Allora l'Italia è piena di privilegi dappertutto. E va bene, togliamoli. Ha una pensione di 10.000 euro in più. Ma togliamoli, ma togliamoli anche ai giornalisti, cioè, ma chi ma se no, ne frega? Ma non è quella la questione, cioè, ma non è vero, sono questioni diverse. Prima non è vero che i giornalisti hanno pensioni così alte, sono poi pensioni calcolate come tutti gli altri sulla base del loro. Non è vero. Ma sì, non è vero. È verissimo. Secondo, non abbiamo il culo. Terzo, non succede che fai due giorni in un giornale e poi c'hai il vitalizio per il resto della tua vita. I tuoi amici radicali che sono stati un giorno in Parlamento e si sono ciucciati il vitalizio. Non l'hanno fatto per quello. Giorgiana Masi. No, ho capito, ma infatti no. Pagato il vitalizio a Toni Negri, ragazzi. No, allora, attenzione. Giorgiana Masi, ma è morta a 10 metri. Vabbè, ma questo però Vincino, che cosa c'entra questa cosa adesso? Come? Ma io ce l'ho un fatto affettivo con Giorgiana Masi, assolutamente. Ma d'accordo, ma cosa c'entra la morte di Giorgiana Masi allora, adesso? L'avvocato di Giorgiana Masi è un eroe questo qua, ma stai scherzando? No, ma attenzione. Ha rinunciato a fare il parlamentare per continuare a fare l'avvocato. No, ma infatti non sto dicendo che sono entrati in Parlamento. No. Fermati. Non sto dicendo che sono entrati in Parlamento un giorno per il vitalizio. È chiaro che lo facevano per un altro motivo, ma il risultato, cioè, ti sembra normale che abbiano il vitalizio per l'Italia due giorni in Parlamento? È piena. Allora teniamocene tutte. Cominciamo da questo. È ridicolo, è antiparlamentare. Demanzoni. Il vitalizio a Toni Negri, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Non si può neanche concepire di pagare il vitalizio a Toni Negri, che è stato eletto in Parlamento per motivo che non è. È stato eletto in salvo, lo sappiamo benissimo. No, è stato letto coi voti. Sì, vabbè, ho capito, ma insomma, con le preferenze è stato vabbè, però è bellissima sta cosa, perché stiamo parlando del nulla, perché al Senato finirà in nulla, eppure vedete come ci si accalora. È il principio che è giusto. Poi dopo hanno fatto ancora una volta, hanno calendarizzato, appunto, ripeto, stavo finendo il discorso. Nel 2015 è stata presentata questa legge, la stiamo discutendo a fine 2017. A fine legislatura è solo uno strumento di campagna elettorale che verrà usato in campagna elettorale, ma effetti pratici non ce ne sarà neanche ma uno. Infatti questa è la cosa insopportabile, perché poi alla fine quelli del 5 Stelle diranno: oh, ce l'avete affossata, ladri, farabutti, disgraziati, andremo noi al potere e lo metteremo come primo punto, abolire i vitalizi, che ricordiamo, un'altra cosa, lo dico tutti i giorni, valgono credo lo 0,2% della spesa pubblica. Cioè, togliere e rimodulare i vitalizi, effettivamente su questa ragione Vincino, a livello pratico non incide praticamente per nulla. È una questione di principio. Certo. Ma tra l'altro è una questione che apre un altro discorso. E ieri qua con Oscar Giannino ne discutevamo, oggi ci torneremo. Cesare Damiano dice: attenzione, ma forse è quello che andrebbe fatto, ricalcolare col contributivo tutte le pensioni, anche dei lavoratori. Ovviamente magari sopra una certa soglia, non è che andiamo a toccare la pensione da 800 euro al mese, 1200 euro al mese, però forse De Manzoni andrebbe rifatto non solo per i parlamentari ma per tutti gli italiani Beh, no, attenzione, cioè, qui si sconfina in altre situazioni, secondo me. Perché se tu non è che tocchi me, ormai. Cioè, la retroattività è assurda. La retroattività è assurda per le pensioni. Ma perché no? Cioè, se è una questione di equità sociale, ma non per i vitalizi, i vitalizi non sono delle pensioni, è quello di cui dobbiamo renderci conto. Non sono delle pensioni, è un patto. Non esiste, è un patto con degli anziani e vecchi deputati. Non rubate agli anziani, questa non si può sentire. Non rubare agli anziani. Ma è gente che spesso ce l'ha il vitalizio dal consiglio regionale. Uno dal Parlamento, un altro dall'Europarlamento. Volete toccare l'autonomia siciliana? De Manzoni, vuoi tu venire da Verona? Ma io gli darei l'indipendenza. Basta che le andiate. Voi che avete dato l'autonomia per non farci fare il separatismo. Vuoi tu da Verona, bello De Manzoni, andare a toccare come Malta, ricchissimi nel Mediterraneo. Irrefrenabile. No, però aspetta, fai finire un attimo Massimo De Manzoni. Cosa volevi dire, De Manzoni, sul ricalcolo? Perché non ricalcolo per tutti? Beh, il ricalcolo per tutti è un disastro sociale, ovviamente. Allora, tu non puoi non puoi fare una cosa retroattiva a livello macro sulla gente, una cosa del genere. Lo puoi fare sui vitalizi perché, ripeto, ribadisco... Non sono una pensione. Vitalizio non è una pensione. I parlamentari, il parlamentare non è un lavoro, hanno... tra l'altro, se vogliamo andare anche a calcolare le ore di lavoro o quanto lavorano, è tutto discutibile, hanno appunto dei privilegi che consistono nel fatto che i versamenti non corrispondono nella maniera più assoluta, ma non corrispondono in maniera esponenziale rispetto a quelli del retributivo di qualche anno fa. Quindi una cosa è intervenire sulle pensioni, una cosa è sui vitalizi. Sono due cose diverse, però sai, è una questione forse per alcuni di equità sociale, nel senso, se uno guadagna 5-6 mila euro di pensione calcolata col retributivo, magari col contributivo scende a 4.000, lo si mette comunque in condizione di vivere bene, nessuno vuol mettere la fame a nessuno, però si ridistribuisce un po' di... si fa un po' di equità sociale, però questo ovviamente è il dibattito. Dopo il traffico sveleremo a quanto ammonta il vitalizio di Vincino, perché ce lo chiedono, ci dite quanto prende di vitalizio Vincino, tra poco. Non so se votare sì o votare no. Fammi pensare, Mila, mandami il traffico per favore, traffico. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta... Una giornata lì in una breccia forte, tutto bulgarino, quasi. Col vitalizio garantiamo ai parlamentari la certezza del futuro, ma allora quando sbagliano garantiamogli anche la certezza della pena. Oppi sapia, piuttosto casino che un abbraccio. La domanda adesso di noi ascoltatori è: ma il prossimo palinsesto ci sarai? Perché noi ti vogliamo bene, sei il nostro idolo. I vitalizi e ci sono contributivi come un operaio, mi sembra la cosa giusta. Però con quelli maturati dopo il 2012. Beh, quelli che allora io dico. Lei è entrato nel 2006. Io sono entrato nel 2006, però ci sono gente che hanno costruito l'Italia. Capito? Ci sono gente che hanno costruito l'Italia. Vabbè, Antonio Razzi si sa, parla. Allora, siamo con Massimo De Manzoni, con direttore della Verità, e con Vincino. Allora, vogliamo svelare la cifra importante, imponente, che decurteremo a Vincino. Quanto prendi tu di vitalizio, Vincino? 1.590 euro. Ma, 1500, ma com'è 1590 euro? Io penso... ho una pensione con 1590 euro. Ah, ecco, che non è vitalizio, dai, Vincino no. Prende zero, non è mai stato in Parlamento, quindi non fate populismo. Io, scusa, quando mi sono presentato alle elezioni due volte. Volevo l'impunità parlamentare e il vitalizio. Tu ti sei presentato per quello, cioè proprio con un programma. L'impunità me l'avete tolta in questa parte, ormai è un cazzo di niente. Il vitalizio dovevi almeno fare un giorno in Parlamento adesso. Esatto. Non ce l'hai fatta e quindi niente. Vabbè, ma non è che sono arrivato vicino, Sei arrivato vicino. Sarebbe secondo nel Veneto per il Parlamento europeo. Senti, ma tu vabbè, allora, tu che sei così attento anche a sinistra, a vedere cosa... Ma questa storia dell'abbraccio meraviglioso. Non sai la notte che è successo. Vedi i disegni dentro il titolo del foglio che non me l'hanno complicato. Non ho capito niente. Cioè, disegni nel titolo del foglio su quello che è successo la notte. Ah, la notte tra Pisapia e Boschi. Questo l'hai detto tu, non io. No, vabbè, dai, insomma, ma guarda, ma De Manzoni mi è proprio un farabutto, cioè, dice le cose, non sai che è successo la notte, uno aggiunge tra Pisapia e Boschi e l'hai detto tu, insomma, sei proprio un delinquente, però è bella questa cosa, con tutte e due le scarpe, però Massimo De Manzoni, vista da destra, cioè vista da, insomma, la verità, è spettacolare questa cosa, no? Cioè, è meraviglioso, è la conferma, intanto una conferma della incredibile litigiosità a sinistra, ma è veramente spettacolare, perché prendono un abbraccio per fare una cosa politica, ma perché lì le tensioni c'erano già, non pretesto che è stato preso, le tensioni ci sono perché, come si diceva prima, quando sono in tre a sinistra ci sono un paio di correnti in quella formazione, no? E abbiamo adesso l'aggregatore Pisapia che è diventato il nemico pubblico, il divisore, cioè sì. Quello che doveva aggregare tutto è un'operazione francamente che si fa fatica a capire. È abbastanza incredibile. Perché c'è già stata una scissione nel PD e quindi uno pensa che chi è in dissenso con Renzi, no, non basta questo. Certo. Non, ce ne vuole un altro ancora, e poi quello che uno di questi tre deve fare è l'aggregatore. Sì. Ma come un aggregatore? Sono appena disgregati. Esatto. È chiaro che non andiamo da nessuna parte. Purtroppo però c'è una cosa poi seria, siccome il Partito Democratico è un partito importante e condiziona la vita di questo paese da parecchi anni ormai. Sì. E il fatto che sia praticamente in congresso permanente è un danno per la democrazia, perché poi tutte queste tensioni, tutti questi problemi si scaricano sulla qualità del governo. Ma c'è da dire, Vincino, ma in tutto questo invece, sai, Renzi pare che abbia iniziato questo mese sabbatico, questo mese francescano, in cui non vuole litigare con nessuno, non vuole commentare il chiacchiericcio della politica, non vuole... Ti piace Renzi, il nuovo modello Renzi? Io tutto contento, vitalizio? No, ridicolo. Vabbè, neanche voi, a me sono ancora arrabbiato. No, chi è? Sei arrabbiato in che senso? Dei vitalizi, Renzi. Ancora sta storia dei vitalizi, mamma mia che palle. Ancora è oggi, non è che... Non è super, lascia un giorno e poi la supera. Va bene, ti richiamo domani e mi dici cosa ne pensi di Renzi. Vediamo. Dimmelo poi, oggi. Vedete, domani a dove te l'hanno messo, Alle cucine? Al bar? Ma chi? A te, da settembre devo capire, anche io oggi c'è la conferenza stampa, mi presento, cerco di capire dove mi hanno piazzato, se a fare bene. Sì, mi comporto bene, ho messo la giacca buona, guarda, per la conferenza stampa. Vabbè, di Renzi non ci dici nulla, di Berlusconi non ci dici nulla, Berlusconi. Che devo dire, quella? Quello è, come dire, è là sempre. È là sempre. Del Movimento 5 Stelle cosa ci vuoi dire? Terribile. Vomito. No, come vomito? Uno peggio dell'altro. Ma fatto bene. e Grillo con quel parrucchino là che faceva le boccacce, una cosa bella. Le boccacce, le boccacce di Grillo. Adesso te lo ritrovi, li ritrovi vicino a governare la Sicilia, poi voglio vedere. Ma infatti intanto conquisteranno la Sicilia, ma sai che spettacolo, ma non lo sto dicendo, attenzione. Si presentasse Orlando, per esempio, Orlando vincerebbe alla grande. Alla grande. Però immaginate. Ieri sono Paura a casa mia a Mondello a guardarmi il giardino. Diceva: Palermo è pulita, meravigliosa. Come cavolo è? No, però immaginatevi la Sicilia di Vincino governata dal Movimento 5 Stelle. Vincino dà di matto, dà di testa. Cioè, impazzisce. Guarda, a Palermo non ci sono riusciti. A Palermo abbiamo votato uno di 70 anni. Ma lascia stare, fammi sognare un giorno. Fammi sognare. Tu che arrivi e inizi a prendertela con la Sicilia. La Sicilia occupata dal Movimento 5 Stelle. Vabbè, perché qua Crocetta che era un altro deficiente, scusami. No, ma allora, fermi tutti. Avete le palette da 0 a 10? Massimo, c'hai la paletta per votare? C'è un'amica, una politica amica del giornale La Verità, è Cécile Kyenge, che canta Alba Chiara ai microfoni di Radio Rock dei Ancetnikovic. Sentite qua. Piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole. Sei chiara come l'alba, sei fresca come l'aria. Dai. Diventi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi. Il ritmo. Nei tuoi pensieri. Però dai, l'intonazione ti c'è. Vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione. Che cacchio c'hai da ridere, Vincino? Un particolare. Cioè, che gli dai di voto? Solo per farti io? Guardare. Ma tu la voce ce l'ha, eh? Ce l'ha. 4. No, deve studiare un poco l'italiano, no? Però vabbè. L'italiano. Adesso. Sia un'alba chiara anche per lo Jussoli, per i giovani. Eccoli, sono tutti uguali. Speriamo sia un'alba chiara anche per lo Jussoli. E De Manzoni le dà 2, così. No, si è spezzata la paletta. al di là dello Jussoli, sì, ti avrei dato 0 comunque, perché è il politico. Vabbè, ma dai, ma come ma voce? Non lo devono fare, ma che cosa c'entra? Ma perché? Perché si credono di rendersi più empatici. Si rendono ridicoli ancora di quanto si rendano ridicoli. Non invece lo devono fare. Noi salutiamo il grande Dejan Cetnikovic di Radio Rock, che li immortala tutti uno dietro l'altro. Va bene, un saluto a Vincino e a Massimo De Manzoni con Direttore della Verità. Siete ridicoli, vergognate! Il segnale orario vi è offerto da... Sei in ritardo! Ma ho comprato le pizze Roncadin! Non sei in ritardo! Roncadin, nel banco freezer! Dimentica i compromessi, scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presenta... Uè, Aline Mila, Eli e Gestigion, Lanciano di... Yammia! 24 mattino. Sono le 7:16 minuti, questo è il penultimo appuntamento, la penultima puntata di 24 mattino, poi si va in vacanza, poi chissà. No, oggi c'è una conferenza stampa di Radio 24, poi domani sveleremo tutto di quello che succederà anche di noi, di Peter Bescapè, di me, di Lorenzo Nespoli, di tutta la redazione. Andiamo in vacanza 5 anni, signori, vi annuncio questa cosa. No, non è proprio così. Dai, questo è lo spazio dedicato alla rassegna stampa, quindi alla lettura dei quotidiani di 24 mattino. Andiamo a vedere che cosa ci offrono. Dai, Milan, che è quasi finita! Siamo a giovedì 27 luglio, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore è nello scontro economico finanziario tra Italia e Francia, Fincantieri, crisi Italia-Francia, anche la stampa, braccio di ferro sull'Airbus del mare, Roma respinge il diktat di Macron su Fincantieri STX.